Europa 24. In primo piano l'impegno della Commissione europea per l'istruzione. Today I'm pleased to announce that we fulfill and surpass our commitment to. L'anno scorso mi ero impegnato ad aumentare dall'1 al 4% l'impegno europeo per l'istruzione in situazioni di emergenza, ha detto questa mattina Christos Stylianides, commissario europeo per gli aiuti umanitari. Ora posso dirvi che faremo anche di più. Passeremo da 11 milioni a 52 milioni. L'education è una delle priorità dell'Unione Europea. Nel mondo 37 milioni di bambini non frequentano le scuole in aree di crisi. Non possiamo stare a guardare, dobbiamo agire subito. Ogni bambino ha diritto all'educazione, investire nell'educazione e investire nel loro futuro, dice ancora Stylianides. L'educazione è il fondamento di tutto, è uno scudo contro la radicalizzazione, contro i matrimoni e l'arruolamento forzato. L'educazione terrà i bambini lontani dal terrorismo e dalle organizzazioni criminali. Questo pacchetto potrà raggiungere oltre 2 milioni e 300 mila bambini in 42 paesi, in particolare in Medio Oriente, Siria ed Iraq, Africa orientale, centrale, poi anche Asia e Sud America. Il mercato europeo della droga vale almeno 24 miliardi di euro l'anno in Europa e non solo, è una delle attività più redditizie del crimine organizzato, ma può andare a finanziare il traffico di esseri umani e il terrorismo e minare gli sforzi per lo sviluppo internazionale. Sono parole del commissario per gli affari interni Dimitris Avramopoulos, che ha presentato il rapporto 2016 sul mercato della droga nell'Unione Europea, pubblicato dal Centro per il Monitoraggio Europeo sulle Droghe e dall'Europol. Torna a pendere a vantaggio dei filo UE il pendolo della sfida referendaria nel Regno Unito in vista del voto sulla Brexit del 23 giugno. Secondo un sondaggio del Daily Telegraph, il sì all'Europa sarebbe al 51% e il no al 44%. Un ribaltamento delle posizioni rispetto a molti dati recenti e a un sondaggio realizzato dallo stesso centro studi in un mese fa. L'Unione Europea deve far sentire la sua voce e trovare accordi non solo con la Turchia sul fronte immigrazione, ma anche con quei paesi africani da cui si concentra il flusso verso l'Italia. Lo afferma in un'intervista al Financial Times il ministro dell'Interno Angelino Alfano, invocando maggiore unità d'azione all'interno dell'UE in materia di rimpatri di irregolari. L'Europa è stata in grado di trovare risorse quando è stato urgente, mi riferisco alla Turchia, ha detto Alfano. Intanto la Commissione Europea pensa alla revisione del Trattato di Dublino. Non ha ancora compiuto 20 anni, ma per il regolamento di Dublino è giunta l'ora di una revisione fortemente auspicata, tra l'altro dal governo italiano, che incasserebbe così un primo grande successo. La Commissione europea proporrà ai 28 una riforma del sistema d'asilo europeo, nell'ambito della quale la responsabilità del trattamento delle richieste passerebbe da livello nazionale a livello europeo. Così scrive il giornale tedesco Die Welt, che anticipa la bozza di revisione, secondo la quale l'EASO, l'ufficio di supporto per l'asilo europeo, si trasformerebbe da semplice agenzia europea in un ente in grado di prendere decisioni. Questo creerebbe un meccanismo di decisione centrale, assicurando un'armonizzazione completa dei procedimenti. Accetteranno i 28 di cedere un po' della loro sovranità? Vedremo. Di sicuro lo scenario è mutato rispetto a quando il regolamento è stato firmato nella capitale irlandese nel 1997. Gli stati di frontiera, in particolare Italia e Grecia, si sono trovati a dover gestire centinaia di migliaia di richieste di asilo e migranti che non vogliono farsi identificare perché interessati a continuare il loro viaggio verso il nord Europa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.